La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, amici all'ascolto, un saluto da Franco D'Assisti, l'ora di cinema di Radio 24 per un fine settimana ricchissimo di nuove uscite, un fine settimana con una decina addirittura di nuovi film in sala e molte molte cose interessanti, anche molto belle, a partire dal blockbuster della settimana, ovvero il ritorno di Star Trek, ad andare avanti con un film di grandissima qualità artistica come il caso Kerenes, Orso d'Oro a Berlino. Insomma, il nostro menù sempre molto ricco, noi lo riepiloghiamo come sempre nei nostri titoli di testa. Into Darkness, torna Star Trek. Con Kirk e Spock giovani rissosi sull'Enterprise e un umano scongelato che minaccia la sua stessa specie. Convince il nuovo capitolo della saga firmato J.J. Abrams. Una casa nel bosco, un vicino con molti misteri, una botola da non aprire su una cantina in cui non scendere. Stilemi dell'horror su cui poggia House at the End of the Street, con un'ottima Jennifer Lawrence. Un marito, un figlio, una nuora, accomunati dal disprezzo di Cornelia, la madre ape regina della famiglia Kerenes, che ricorrerà ad ogni mezzo, soprattutto illecito e cinico, quando si tratterà di evitare la galera al figlio. Il caso Kerenes, Orso d'Oro a Berlino, è un film da non perdere. Un narcolettico, un cybersesso dipendente, un maniaco dell'igiene e un iperattivo. Quattro ragazzi in clinica piantano tutto e se ne vanno a Ibiza. Nulla può fermarci è la loro storia, una sorta di notte da leone adolescenziale e all'italiana. Con Massimo Ghini, genitore apprensivo, intervistato alla Rosa Purpurea. E cominciamo allora la nostra cavalcata di questa settimana con il film che ha aperto la mostra del cinema di Venezia dello scorso anno, del 2012, Il fondamentalista riluttante, questo è il titolo del film di Mira Nair, regista indiana ma ormai anche abbastanza hollywoodiana, che ha firmato un film che mette insieme un cast che va da Riz Ahmed nel ruolo del protagonista, Kate Hudson, da Kiefer Sutherland a Liv Schreiber. Una storia molto interessante che comincia con 10 minuti di grandissimo cinema, davvero all'inizio, la scena iniziale che si svolge in Pakistan, montata in alternato fra una festa tradizionale di famiglia e dall'altra parte un rapimento di un cittadino americano. È davvero un momento, anzi sono minuti e minuti di grandissimo cinema che ci portano dentro la storia. Siamo in Pakistan nel 2011, all'epoca del racconto dei fatti dopo l'attentato dell'11 settembre. Poi il film però avrà frequenti flashback che ci ricorderanno il momento esattamente precedente, un po' quello che era successo, e appunto viene rapito un cittadino americano. A indagare sulla questione viene mandato un giornalista, in realtà giornalista come dire collegato con l'intelligence americana, per provare a fare un'intervista e attraverso questa intervista cogliere la verità o comunque coglierne un aspetto con il giovane Changez Khan, professore universitario in Pakistan, che però pare insegnare durante le sue lezioni anche molto la rivoluzione islamica e non solo le materie che dovrebbe insegnare. E tutto questo però con un passato da parte di questo fondamentalista riluttante, appunto come dice il titolo, un passato che aveva toccato con mano l'America, aveva toccato con mano Wall Street, il potere diciamo del capitalismo occidentale, e che da quello a un certo punto si era distaccato. E allora appunto arriva questo contatto fra il giornalista con l'intelligence alle spalle e il professore con la rivoluzione islamica alle spalle, e sarà un contatto enormemente chiarificatore. Avrei dovuto provare dolore o rabbia, invece ero solo soggiogato. Quale audacia! La ferocia di quell'atto era superata dalla sua genialità. Non mi esalto alla morte di 3.000 innocenti, come tu non ti esalteresti alla morte di 100.000 a Baghdad o a Kabul, d'altro canto. Ma prima di averne cognizione, non hai mai provato per una frazione di secondo piacere per l'arroganza messa in ginocchio? E tu mi chiedi perché se la prendono con la tua famiglia? Piantiamola con le cazzate, ok? Per te la violenza è un mezzo di cambiamento sociale. Insegni rivoluzione violenta all'università di Lahore. Le tue lezioni sono infarcite di retorica anti-americana. Laveremo il sangue degli invasori dalle nostre spalle! E allora questo è un po' il momento della rivelazione della verità, quando si capisce chi fa cosa. Dicevamo il passato però dentro l'occhio del potere, dentro il centro, e anche in questo caso molto interessante il momento in cui Genghis Khan decise, questo succedeva prima però dell'11 settembre, di andarsene dalla multinazionale nella quale lavorava, capeggiato proprio da Kiefer Sutherland, come in una sorta di improvvisa presa di coscienza. Stavo per venire da te. Mi ha incuriosito il tuo messaggio. Non lo lascio andare. Che diavolo significa? Significa che non licenzierò Nazmi Kemal. E ho deciso di piantarla con questo lavoro. Do le dimissioni, Jim. Hai accettato la carica di associato meno di 3 mesi fa. Se molli adesso, con questo lavoro hai chiuso. Non lo farai mai più. Da nessuna parte. Il tuo è un suicidio professionale. Ho un impegno con me stesso. Un impegno da rispettare anche verso me stesso. Che cosa vuoi fare? L'assicuratore, Changes? Col mutuo da pagare l'emicrania, è questa la vita che ti eri immaginata? Invece di quale altra? Voglio delle verità nella vita. Me l'hai insegnato tu. Mettiti quel cazzo di scarpe e va subito in ufficio a fare il lavoro per cui sei stato assunto! Non è più il mio lavoro ormai. E allora, film interessante, con molti livelli. Mira Nair aveva firmato qualche anno fa all'interno di un film collettivo che forse qualcuno di voi ricorderà, che si chiamava proprio 11 settembre 01, film collettivo in cui si raccoglievano tanti sguardi di registi attorno alla tragedia dell'11 settembre. Mira Nair aveva firmato, dicevo, un episodio che raccontava proprio di un pakistano residente a New York, scomparso dopo il crollo, sospettato di legami di Al-Qaeda, invece poi in realtà trovato morto sotto le macerie perché era andato a prestare soccorso a quei cittadini. Ecco, questo momento in cui questi cittadini in America si sono sentiti immediatamente guardati con l'occhio accusatorio è la radice, è il momento in cui questo film, anche questo film, Il fondamentalista riluttante, nasce. Un film che non fa meno di una sottotraccia sentimentale, che però è molto importante a stabilire nel film perché si diventa integralisti, quali sono le motivazioni che ti spingono all'estremismo, ma un film che ha anche una lettura d'azione, diciamo così, nella quale Mira Nair se la cava piuttosto bene, soprattutto, ripeto, nella prima parte. Poi magari cinematograficamente, soprattutto la seconda parte, lascia un po' qualche sfilacciatura di troppo nella sceneggiatura e nelle conclusioni, ma rimane un film molto interessante per continuare a guardare ormai 12 anni dopo una tragedia che ha cambiato per sempre il mondo. La rosa purpurea. Pensate che il vostro mondo sia al sicuro? È solo un'illusione. Godetevi questi ultimi momenti di pace. Tutti voi sapete cosa è successo a Londra. Il responsabile è un nostro agente. I vostri comandanti hanno commesso un crimine che io non perdonerò mai. Nessuno di voi è al sicuro. Insomma, abbiamo fatto sentire quello che è un po' il c'era una volta, l'incipit del nuovo Star Trek Into Darkness. Il film ancora una volta porta la firma di J.J. Abrams per raccontarci la giovane truppa di Capitan Kirk, di Spock e di tutti gli abitanti dell'Enterprise, per raccontarci, dicevo, loro giovani, come già era successo nel primo film, alle prese con nuovi problemi, chiamiamoli così usando un eufemismo. Un Enterprise che sembra un po' il cortile dei giochi nel quale queste due personalità piuttosto forti e indisciplinate continuano a fronteggiarsi, appunto Kirk e Spock. A unirli nel compito, nel dovere, ci sarà una minaccia imprevista e molto molto grave, con una sorta di uomo, appunto, che la stessa razza umana aveva modificato geneticamente, poi congelato, e adesso invece questo si scongela e rischia di mettere a repentaglio l'esistenza stessa dell'umanità. Boris Sollazzo in collegamento con noi per parlarci di questo Into Darkness. Buongiorno Boris. Buongiorno Franco e a tutti gli ascoltatori. Allora, se il primo aveva fatto il suo mestiere, il primo reboot, chiamiamolo così, di Into Dark, di Star Trek, firmato Abrams, questo secondo porta avanti il compito, forse addirittura migliorandolo. Direi credo di sì. Il debutto di J.J. Abrams, secondo me, è riuscito dove Star Trek più era penalizzato, cioè proprio al cinema, se si esclude forse il secondo capitolo della saga precedente. Era sempre stato abbastanza mediocre il rifacimento al cinema della serie televisiva. E qui invece ci troviamo di fronte a un grande regista, secondo me l'ultimo dei moicani hollywoodiani, diciamo, l'unico che veramente ancora porta avanti un'idea di Hollywood come industria del divertimento e dell'intrattenimento, come produttore e creatore di storie divertenti che fanno sognare, che vogliono catturare con effetti e affetti speciali lo spettatore. E ci riesce benissimo, secondo me, ci riesce benissimo, tanto da coprire persino i difetti che ci sono in questo Into Darkness, perché questo Into Darkness è il classico film d'avventura, un po' western, un po' fantascienza, in cui tu ti abbandoni come un bambino, e come un bambino lasci andare anche quello che proprio non è perfetto, come per dire i due protagonisti, che sono sì disegnati bene da J.J. Abrams, ma sono interpretati da Chris Pine e Zachary Quinto, che non sono proprio l'esempio della migliore recitazione americana, anzi, insomma, sono abbastanza inespressivi, ma non fa niente, perché tra l'altro J.J. Abrams ne ha sempre fatto una forza, cioè di quello di portare degli attori non particolarmente carismatici all'interno delle sue storie per renderli funzionari alle storie stesse. Lo stesso vale per la sceneggiatura verso la fine, fino a 30-40 minuti dalla fine la sceneggiatura è abbastanza orologeria, poi si perde perché iniziano a tirarsi le fila di tutti i finali, di tutto ciò che sta succedendo. J.J. Abrams si fa un po' prendere la mano, ma non te ne accorgi, perché anche lo spettatore nel frattempo è talmente coinvolto che si fa prendere la mano. E questo forse è il regalo più grande che ci può fare J.J. Abrams, cioè fare come la Hollywood di un tempo, quella Hollywood che ti faceva salire su una giostra e tu su quella giostra pensavi solo a divertirti, non pensavi a guardare i dettagli. E Into Darkness, tra l'altro, porta avanti questo reboot enormemente più interessante delle storie raccontate fino adesso, con questo Kirk giovane, molto indisciplinato, eravamo abituati a vederlo come uomo di mezza età in pigiama, e adesso ci ritroviamo invece questo ragazzo scatenato, e come Spock, che la cui atarassia, la cui mancanza di sentimenti viene raccontata in maniera ironica, ma viene anche spiegata rendendolo un personaggio molto più profondo. Quindi io non posso che promuovere l'Enterprise e tutto l'equipaggio, dottor McCoy compreso, dottor Bones compreso, col massimo dei voti. Spock! Ho attivato il dispositivo, capitano. Alla fine del conto alla rovescia, la reazione renderà il vulcano inerte. E renderà anche lui inerte. Possiamo usare il teletrasporto? Negativo, signore. Non con questi campi magnetici. Devo teletrasportare Spock sulla nave. Datemi un modo per farlo. Forse se visuale è libera e se possiamo andare più vicino... Aspettate, stiamo parlando di un vulcano attivo. Signore, se eruttasse non posso garantire che sopporteremmo il calore. Non so se potremo restare a quell'altitudine. La navetta era nascosta dalla nube di cenere, ma l'Enterprise è troppo grande. Se la utilizzassimo per il soccorso, sarebbe vista dalle forme di vita indigene. Spock, nessuno conosce le regole meglio di lei. Deve pure esserci il modo di fare un'eccezione. No. Una simulazione violerebbe la prima direttiva. Silenzio, Spock, vogliamo salvarla, diamine. Dottore, le esigenze dei molti contano più di quelle dei pochi. Spock, è della sua vita che parliamo! La regola non può essere infranta. Spock! Provi a ripristinare il contatto. 90 secondi a detonazione, signore. Se Spock fosse qui e io laggiù, che cosa farebbe? Ti lascerebbe morire. E questa è un po' la filosofia molto interessante, insomma, dell'Enterprise. E questo era Into Darkness, quindi promosso il nuovo episodio di Star Trek. Vediamo invece quali saranno i promossi fra i nostri ascoltatori che cercheranno di vincere una copia in DVD del film misterioso della settimana, di cui vi proponiamo la prima traccia. Sei diventata pazza, mo? Perché? È la nostra occasione per fare un po' di soldi. Per fare soldi? Se mi beccano a fare una cosa come questa, sono 5 anni sicuri. Siamo straccioni, chi sospetterebbe di noi? La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per provare a indovinare, con il vostro indirizzo privato invece, di che film si tratta. Titolo e vostro nome con indirizzo. Più tardi ci saranno altre due possibilità. E allora parliamo adesso di un film thriller, sì, direi thriller con venature horror, però insomma più thriller che horror, sempre difficile fare disquisizioni nei generi, soprattutto quando comunque è a tensione l'elemento fondamentale. Stiamo parlando di House at the End of the Street, Hates è il nome, diciamo, il titolo principale, ma è anche l'acronimo, se ci fate caso poi di questo titolo, film diretto da Marc Tonderai con il premio Oscar Jennifer Lawrence, Max Thieriot ed Elizabeth Shue nel cast. Film piuttosto interessante che ripropone uno stilema dell'horror e del thriller, quello della botola sotto la casa nel quale succede un po' di tutto, insomma un po' la casa maledetta in sé e un po' anche cosa si cela nei meandri, nelle cantine di solito di questa casa. Una coppia madre e figlia, madre divorziata e figlia, appunto Elissa, vanno a vivere in un quartiere abbastanza esclusivo, con questa bella casa per ricominciare la propria vita dopo il divorzio. La pagano anche poco la casa, sì, perché di fronte c'è una casa della quale in zona si vocifera piuttosto male. Si dice che è una casa dove sono successe, anzi si sa che è una casa nella quale è successo un efferato delitto, una figlia ha assassinato i genitori, e perciò il mercato immobiliare, come dire, regala questa bella magione, questa bella dimora a madre e figlia. Nella casa vive ancora il fratello della giovane assassina, Ryan, con il quale la ragazza Elissa pian pianino comincia, dopo un primo imbarazzo, accetta un passaggio, insomma comincia non proprio una relazione, sicuramente però un'amicizia molto forte, molto intensa. Sono due ragazzi affini, sono due ragazzi un po' fuori dal coro, insomma si sentono attratti e comunque spiritualmente vicini l'uno all'altra, fino a quando però nel gioco delle parti cominciano a venire fuori, a venire a galla alcuni particolari, diciamo così, piuttosto conturbanti, piuttosto inquietanti della figura di questo ragazzo e soprattutto di quello che succede sotto quella casa. Ti ha spaventato quello che dicevano a tavola? Sì, sono degli stronzi. Bisognerebbe bruciare quella casa. Mi domando dove abbiano nascosto torce e forconi. Ah, sì. Ci vive qualcuno lì, secondo te? No. No, è da escludere. Dai, vieni! E allora, il clima, come vedete, sembrava essere arrivato al punto giusto e invece le cose cominceranno pian piano a scivolare. Come dicevamo, quella della stanza, della porta sbarrata, della botola chiusa, insomma, di non aprire quella porta, di non aprire quella botola, è uno stilema dell'horror. È molto importante vedere come lo si usa. E devo dire che in questo caso il regista Marc Tonderai riesce nell'equilibrio di fare interessare e soprattutto di tenere lo spettatore di fronte a una verità svelata che però ovviamente, forse, ma con grande maestria, si rivela non essere la verità. Ed è un po' forse questo il gioco attorno al quale funziona, così come funzionano molto bene gli attori. Jennifer Lawrence, ormai di lei abbiamo detto tutto, brava, sempre nella parte. La bella trovata qui è da una parte Max Thieriot, attore con il viso molto vissuto e quindi con la capacità di interpretare parti anche di intensità drammatica, e anche la mamma Elizabeth Shue non è assolutamente male, è un bel ritorno questo di Elizabeth Shue, la ricorderete in Via da Las Vegas, molto più giovane di adesso. Dicevo quindi, bene la recitazione, bene gli attori e bene tutto sommato anche la regia, che ti riesce a portare fino a pochissimi minuti dalla fine, ovviamente noi non vi svegliamo niente di questo, ma con l'idea che quello che stai vedendo è già ti bastava sia la verità sui fatti narrati dal film, con un colpo di scena finale che invece ribalta tutto quello che hai visto in precedenza e dà una nuova prospettiva a quello che stai per vedere. E tutto sommato questo, nell'economia di un thriller di genere che ripeto poggia su stilemi ben precisi, è sicuramente già un risultato. Signora Cassidy, sto cercando Lisse qui da te. No, signora, io non mi arrabbierei se fosse qui. Promettimi che non racconterai a nessuno di Carrie-Anne. Sì, lo prometto. Abbiamo una nuova vicina. Si chiama Elissa. Lei e sua madre si sono appena trasferite. Non voglio che le accada nulla. Cos'è successo di preciso? La figlia, Carrie-Anne, ha ucciso entrambi i genitori. Vedrai, tesoro, ci troveremo proprio bene qui. La rosa purpurea. Guglielmo, perché sei qua? Missione breve? Padre oppressivo, Tourette. Socialità complicata. Tu? Sovraccarico cognitivo da abuso di internet. Troppe seghe. E come ti curano i medici? Medici? Questi sono nazisti. Bene. Lui? Lui è Mattia. Ci raggiungo fra un po'. Ma quale sia? Vieni qui ogni anno, sperando nel miracolo. E senza speranza, poverino. Ti sento. Ma dai, però, ma mi hai lasciato dormire nel piatto? Era solo insalata. E poi dici sempre di non svegliarti. Ma vi conoscete da molto? Ci vediamo qui ogni anno. Da 4 anni. Una bella banda, quella di Niente può fermarci, il film di cui ci occupiamo ora, qui alla Rosa Purpurea, Mattia narcolettico, Augusto sesso internet dipendente, Guglielmo sindrome di Tourette, Leonardo ossessionato dall'igiene, non vuole farsi toccare da nessuno, tutti gli anni si trovano in questa clinica dove si curano questo tipo di dipendenze e di disturbi, mandatici ovviamente dai genitori, ma quella volta si trovano tutte insieme e decideranno di partire alla volta di Ibiza, di andarsi davvero a divertire, un po' come una sorta di notte da leoni con qualche anno in meno, e poi chiaramente il film prosegue con tutti i rapporti con i genitori, con tutto quello che ne viene fuori. Dirige questo film italiano Luigi Cecinelli, tra l'altro nel cast ricordiamo anche la presenza, oltre di Massimo Ghini che sentiremo fra poco, anche di Gérard Depardieu. Dicevo, Cecinelli che ha esperienze a Los Angeles come regista e un po' si vede nella mano, nel modo proprio di girare. È una commedia italiana, Boris, ritroviamo intanto Boris Sollazzo. Boris, una commedia italiana giovanile che non si fa molto in Italia, cioè in Inghilterra, in America ovviamente, in Inghilterra abbiamo visto film magari come Finalmente maggiorenni, eccetera. Qui questo tipo di coming of age comedy è un pochino così, poco frequentata. Con quali risultati ci è andato Cecinelli? Ma ho l'impressione che Cecinelli non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo, nel senso che, come dicevi tu, appunto, questa non è una commedia molto italiana, anzi, è quel tipo di commedia che magari si fa in maniera più corrosiva dalle parti del Belgio oppure nel mercato anglosassone, e forse doveva avere il coraggio di puntare su questo stile qua. Invece poi cerca di italianizzarla e l'impressione è che Niente può fermarci, non trovi mai una sua anima precisa, ha delle belle intuizioni, penso al personaggio di Guglielmo, quello con la sindrome di Tourette, che pur andando spesso oltre la macchietta è sia ben recitato che è abbastanza ben scritto, però quello di Mattia per esempio invece sconta anche il fatto di avere come attore un non attore, un calciatore del Palestrina, prestato al cinema e che chiaramente ha i suoi problemi, la macchina da presa, e inevitabilmente si trova in difficoltà. Il problema è proprio questo, che non c'è una grossa omogeneità, anche scegliere invece di avere genitori così ingombranti in tutti i sensi, ingombranti a livello di sceneggiatura ma ingombranti anche a livello di talento, Massimo Ghini, Serena Autieri, Gianmarco Tognazzi, spinge il problema che dicevamo, cioè spinge la divaricazione tra i giovani attori che vengono provati, che vengono sperimentati, e gli attori navigati, mostrando diciamo le lacune degli uni o l'artificiosità degli altri anche, perché chiaramente il problema è proprio quello, che nessuno dei due a quel punto sembra naturale. Mi piace l'esperimento in tutti i sensi, cioè sia all'interno della storia l'esperimento di raccontare una commedia corale giovanile diversa, e sia fuori perché c'è un grande dispendio di energie per valorizzare giovani talenti, sia davanti alla macchina da presa sia dietro, e questo nel cinema italiano accade raramente e comunque va applaudito. Credo che dovremmo rimandarli a settembre, cioè che in qualche modo dovremmo rivedere magari lo stesso gruppo in un altro film, perché qui poi non ti accalappiano mai, insomma, nonostante la buona idea di fondo, la scrittura e il modo di portare avanti la struttura narrativa non sono efficaci. Però ho l'impressione che insomma ci sia da lavorare per trovare del buono in questo gruppo di lavoro. E allora, in questo gruppo di lavoro c'è anche, come dicevamo prima, Massimo Ghini nei panni di un padre. Ascoltiamoci questa telefonata e poi l'intervista esclusiva fatta proprio da Boris Sollazzo a Massimo Ghini. Sentiamo. Allora, che cosa devo controllare? Vai sull'email. Mi chiede la password. Che la vulva sia con te. Come, scusa? Non ho capito. che la vulva sia con te. Tutto attaccato? Sì, tutto minuscolo. Ecco, ci sono. Ma è pieno di roba porno qui. Non fa niente, papà. Dai, guarda se c'è un messaggio di Sharon87. Meet Hot Girls. Ah, eccola, eccola, Sharon87, eccola. Aprila. Leggimela. Caro Augusto, non pensavo che tu potresti essere così se potresti. Donna di lettere questa Sharon. Papà, vai avanti. Siamo come due stelle lontanissime tra loro, una volta celeste. Papà, devo andare. Per quanto riguarda la commedia all'italiana, l'impressione è che stia succedendo quello che era successo in passato. Nel momento in cui i grandi attori facevano la commedia all'italiana, la commedia era grande. Da quando tu e altri avete cominciato o ricominciato a fare la commedia, sembra esserci un risveglio anche artistico, non solo commerciale. Ma guarda che, sai, è un vecchio ragionamento. Poi io sono sempre stato un po'... spero che me lo riconoscete ancora da vivo, sarà l'unica soddisfazione, un po' provocatore da questo punto di vista, perché sono stato un po' un apripista al quale si è detto qualunque cosa, poi dopo tutti fanno, come dicevo quando ho fatto il primo film di Natale o quando ho fatto la prima volta la televisione, oggi fanno tutti la televisione, quando ho fatto il primo film di Natale oggi fanno tutti il film di Natale. C'è qualcuno nella vita, io sono un po' così, sono quegli adorabili coglioni che aprono, fanno un po' gli apripista, mi sento di fare parte di quella squadra. Quando ho sempre detto che la vera tragedia che noi abbiamo attraversato era quella che per troppi anni avevamo allontanato gli sceneggiatori dalla commedia, perché è sì un fattore determinante l'interpretazione, per l'amor di Dio, questo non discuto, però devi sempre pensare che noi veniamo da un grande cinema che ha fatto una grande commedia perché c'erano grandi sceneggiatori che facevano la commedia. Questo tipo di scelta pioneristica che hai fatto, ti è costato qualche snobismo di troppo da parte del cinema più d'autore? Tantissimo, tantissimo. Adesso lo voglio dire, mi sto avvicinando, come dire, a un'età in cui la soddisfazione, la non soddisfazione di vedersi invecchiare, dall'altra parte di poter dire delle cose, sì. E ci ho sofferto pure, lo dico senza nessuna cosa, perché pensavo di non essermelo meritato, invece. Parlo sempre per uno poi che ho girato tutti i festival, ho fatto le Cannes, Venezia, cioè, non è che sto lì a dire, oddio, c'è una cosa... Però l'ho sentita e devo dire grazie a molti autori, a molti registi che invece mi hanno fatto lavorare, che mi hanno dato delle bellissime occasioni in un ambiente, in una dimensione che era completamente lontana da quella dalla quale io provenivo, e questo non me lo dimenticherò. Oggi, cioè, ricordo sempre, dico una cosa, fermo un semaforo, mi ricordo, vedo tre cartelloni di tre film di Natale, uno era il mio e ce n'erano altri due. E quel giorno sono stato contento perché ho detto, vedi, non sono più solo. E lì ho capito che le cose sarebbero cambiate. Massimo Ghini nel cast di Niente può fermarci, intervistato da Boris Sollazzo. Interessanti davvero questi aspetti un po', no? Anche di come un attore vive se stesso, la propria carriera, a seconda di come poi la storia scrive la storia più grande del cinema, perché tante volte appunto capita, no? Di dire, ah, quell'attore si è perso, poi magari invece sta prendendo una strada nuova. Bisogna sempre avere un po' di pazienza per poter storicizzare il tutto e dare un giudizio più posato. Siamo alla seconda clip del film misterioso di oggi, sentiamo. Mai giudicare un libro dalla copertina, eh? Mi faresti un piccolo favore? Assaggia questo. Che ne dici? Questo è facile. Si può sapere dove hai imparato? Hai veramente un gran naso. Tieni, ecco il mio biglietto. Non si sa mai. Siamo entrati un po' più in tema con questa seconda clip, la rosa purpurea @radio24.it, con il vostro indirizzo, di che film si tratta, per provare a vincere questa settimana, eccezionalmente, grazie alla distribuzione che ce l'ha messa a disposizione, due copie del film per chi ci ascolta il sabato e due per chi ci ascolta la domenica. Quindi, come dire, tanta roba a vostra disposizione, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Bene, adesso voglio parlare di un film che mi ha molto colpito. Vedo che non ha colpito solo me, visto che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino dello scorso anno. Però, insomma, è un film davvero di una intensità rara. Si intitola Il caso Kerenes. È un film rumeno, diretto da Calin Netzer, che è uno dei registi più interessanti della nuova scena rumena. Scena molto, molto interessante. Sono passati veramente anni luce da quando, a cavallo della caduta del muro, il cinema cinema rumeno ci raccontava con le armi così un po' del grottesco, con le armi dell'allegoria in un certo senso. Forse in quegli anni bisognava anche fare così: per raccontare il reale dovevi raccontare il surreale. Oggi invece la Romania è un paese che prova a essere, tende a essere moderno, occidentale, pur con tutte le sue tradizioni, e il cinema raccoglie questa eredità e racconta la società rumena con grande realismo, ma anche con una matrice di intensità. Pensate al cinema di Cristian Mungiu, per esempio, premiato a Cannes per il suo film tre anni fa circa, quattro mesi, tre settimane e due giorni, se non ricordo male, o il contrario, ma era un titolo con tanti periodi di tempo. Insomma, ecco, c'è un cinema rumeno nuovo, ma molto molto intenso, d'autore che prova a raccontare la sua società anche con i vizi, come fa questo caso Kerenes, storia di una madre non più giovanissima, con un marito che non stima per niente, con un figlio che forse stima ancora meno, lo ritiene un po' un bamboccione, famiglia della nuova borghesia rumena, famiglia che sta bene, fino a quando un giorno non succede che il figlio, forse anche per le sue esplosività un po' mal governate, finisce per uccidere un ragazzino, figlio di gente umile, in un incidente stradale. Qui e lasciatemi! Sta calmo. Vengono dalla città e si credono ai padroni del mondo! Ma lei è anche il suo avvocato? Sì, sono anche il suo avvocato, se serve. Sembra molto informata, molto determinata e con amici influenti. Ha capito bene, quindi cerchi di non fare... Tu sei completamente fuori di testa. Barbu, questo non è un gioco. Ecco, quello che succede è che questa madre, Cornelia, diventa d'ufficio l'avvocato del figlio, mette in campo tutte le armi legali e illegali per cercare di fare sì che il figlio non possa finire in galera, lo fa anche con la corruzione. Insomma, una madre che interpreta in maniera ultra realistica e ultra cinica un ruolo che sente suo, quello di grande protettrice degli equilibri della propria famiglia, una famiglia che totalmente disprezza, dal marito appunto al figlio, anche alla nuora, con la quale ci sarà poi nel finale una sorta di piccolo riavvicinamento, ma non mai di stima. Però questa madre, quando è il momento di difendere il territorio, lo difende con tutte le armi appunto del lecito e dell'illecito, ed è un film che ci porta dentro con un gradino in più verso quello che riteniamo impossibile, che invece questa donna regolarmente fa, pur di arrivare sentirsi la coscienza un po' più sollevata e soprattutto evitare guai peggiori alla propria famiglia. C'è molto del racconto di questa figura, di questa madre tigre, la possiamo chiamare, in questo film, ma c'è molto anche del racconto e della denuncia di una società, quella rumena, che poi non è tanto diversa in questo da quella italiana o da quelle occidentali in generale, cioè della più in generale della perdita di valori e soprattutto in questo caso di una direzione che sembra dire il regista Calin Netzer, la società rumena e una certa borghesia rumena ha preso, cioè non quella auspicabile di diventare la guida di un paese verso l'evoluzione e la modernità, ma di prenderne i difetti peggiori di quello che è stato appunto il ruolo di una borghesia meno aperta, meno illuminata e più tendente a guardare se stesse, a guardarsi l'ombelico dei propri interessi. Questo è un po' il tema, diciamo, sociale che emerge come forma di denuncia. Orso d'Oro a Berlino, ricordo ancora il caso Kerenes, film vi assicuro assolutamente da non perdere. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, quarta parte, cinema da vedere in casa, visioni domestiche che significano per noi, come sempre, Film TV, il settimanale di cinema con i nostri amici della redazione che come sempre ci aiutano nelle segnalazioni, nel pescare perle anche sul sito, sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Anzi, ne approfitto già per dirvi di cliccare mi piace, di unirvi alla nostra comunità come fate sempre in tanti durante le nostre trasmissioni, perché poi trovate lì la puntata in podcast da scaricare, consigli durante la settimana, notizie, classifiche che noi inseriamo puntualmente in maniera quasi più che quotidiana, anzi direi. Ebbene, qualcuno dei nostri amici del gruppone ci ha scritto: c'era questo film, adesso io non lo ricordo, ma c'era questo film, non ne avete parlato nelle segnalazioni di Film TV. Ovviamente Film TV ci manda 40 segnalazioni che sono tutti 40 film da vedere durante la settimana e noi ne scegliamo due perché lo spazio è quel che è. La risposta è: poi c'è Film TV in edicola e date un'occhiata a tutto il resto. Giulio San Giorgio sarà d'accordo con me, ovviamente, io lo coinvolgo subito. Ciao, ciao Giulio. Senti, partiamo subito con uno Spielberg d'annata, insomma, ma proprio d'antan direi, no? 1974, Sugarland Express. Esatto, domenica su Rai Movie alle 22.45, Sugarland Express, storia di Lou che decide di far evadere il marito dalla prigione nonostante manchino solo 4 mesi al suo rilascio. La donna infatti vuole andare a recuperare il figlioletto affidato a una coppia di anziani genitori adottivi. Primo film di Steven Spielberg per il cinema dopo il folgorante esordio per la TV con Duel, è un altro road movie meno metafisico del precedente, un dramma a tratti anche più legato alla commedia e poi alla fine una tragica satira politica sulla società dei consumi e sullo stato di controllo e repressione. Da un fatto realmente accaduto con una Goldie Hawn straordinaria, un film da vedere assolutamente. E allora guardatelo domenica 16 giugno alle 22.45 su Rai Movie, Sugarland Express di Steven Spielberg. Ben altro clima, ma un altro gran film, lo firma Michael Mann nel 1986, si titola Manhunter, frammenti di un omicidio. Esattamente, martedì su Rai 4 alle 23.05, Manhunter, abbiamo un agente FBI che si è ritirato a vita privata a causa delle ossessioni che gli ha procurato la caccia a Hannibal Lecter, maniaco cannibale e raffinato psicologo che tutti voi conoscete bene perché è stato portato al successo dal Silenzio degli Innocenti con Anthony Hopkins. Ora l'agente è richiamato al lavoro perché un nuovo omicida, Dente di Fata, agisce in città. Lecter in prigione lo aiuta. Mann rimane nella retorica del genere, ma riesce a scandagliare l'anima, le ossessioni, le paure dell'umanità che mette in scena meglio di qualsiasi film d'autore, con uno stile allucinato, iperrealista e tesissimo. Manhunter è secondo me uno dei migliori film degli anni americani degli anni 80, un titolo assolutamente imprescindibile. E allora ricordiamo l'appuntamento televisivo martedì 18 giugno 23.05 su Rai 4 con Manhunter. Grazie ancora a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. E allora andiamo a giocare con la terza e conclusiva traccia del game di oggi. Beh, noi abbiamo ritrovato una botte, diciamo, un anno fa e abbiamo venduto una bottiglia di quel whisky a 100.000 sterline. 100.000 una bottiglia? Io ci compravo 30.000 bottiglie della merda che bevo io. Ci facevo 30 anni di bevute. Tu sei scemo. E allora, qui abbiamo proprio svelato l'elemento base di questo bellissimo film, La Rosa Purpurea, @radio24.it, per dirci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie del DVD di questo film per il sabato e due per la domenica. E allora scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica e provate a vincere. Come hanno fatto la settimana scorsa Claudia Cattaneo di Fonte Nuova, provincia di Roma, e Tiziano Poli di Seregno, Monza Brianza, con questo film. Mitch, posso portare i pappagalli qui dentro? No! Ma mamma, sono nella gabbia. Sono uccelli anche loro. Il grande cinema di Alfred Hitchcock torna nella bellezza del Blu-ray. Questo era Gli Uccelli, è uno dei titoli di una collana dedicata al grande Hitch. Abbiamo detto dei vincitori, sentiamo invece cosa ne pensa della edizione un video il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, da Universal Pictures questa doppia edizione, sono due cofanetti molto importanti che hanno permesso a Universal appunto di mettere in distribuzione i capolavori del maestro divido per la prima volta in alta definizione. Tra le opere più significative, La finestra sul cortile, L'uomo che sapeva troppo, La donna che visse due volte, con completo restauro della pellicola e una ricca sezione audio con tracce DTS ad alta risoluzione per l'inglese, mentre il resto dell'offerta include, oltre a numerosi numerose altre tracce, anche l'italiano in DTS, sempre con l'originale doppiaggio dell'epoca, molto importante. Per gli extra, gli appassionati avranno modo di scoprire materiali inediti con pubblicazioni da collezione, come nel caso degli Uccelli, edito per il 50° anniversario, con scene eliminate, finale originale o alternativo, sono immagini dal set, interventi di cast e troupe, storyboard e persino il poster del film con la cartolina da collezione. E allora, questo è il ricco menù per gli Uccelli e per tutti i film rieditati appunto in Blu-ray per Alfred Hitchcock. A questo punto invece parliamo delle novità in videoteca, partendo da un film molto recente come uscita cinematografica, ma assolutamente non tanto per quanto riguarda la sua genesi, perché già nel 1984 il 26enne Tim Burton consegnava alla Disney questo cortometraggio, ora diventato un lungo, che si intitolava Frankenweenie. Tu hai riportato in vita un animale? No, è stato Victor, con fulmini e boom! E... Impossibile. Lo giuro. Insomma, ha già riportato in vita il suo cane. Ha riportato in vita Sparky? Victor lo vincerà il concorso di scienze, se non troviamo qualcosa di meglio. Frankenstein è un adolescente solitario, appassionato di scienze e con un solo amico, il cagnolino Sparky. Le giornate per il bambino trascorrono senza particolari scossoni fino alla fatidica partita di baseball in cui il piccolo animale muore investito da un'auto. Per Victor il dolore immenso, l'incapacità di accettare la scomparsa di Sparky lo spingerà al folle tentativo di ridargli nuovamente vita. Tra citazioni colte e omaggi al cinema horror, Tim Burton ripropone l'ennesima incursione dark in un mondo gotico e tenebroso, tanto grigio quanto il bianco e nero stesso di cui è composta l'opera in stop motion, la morale di nuovo legata alla diversità e all'accettazione di chi non è normale. Da Walt Disney Studios Home Entertainment l'edizione home video DVD, ma soprattutto Blu-ray, quest'ultima con un'offerta che in un'unica confezione include la versione in alta definizione sia 2D che 3D stereoscopica, sono entrambe da riferimento per la qualità di immagine ma anche audio, con tracce DTS in italiano e di pregevole resa e DTS a alta risoluzione per l'inglese. Sono abbastanza gli extra, segnalo su tutti un corto originale focus sulla realizzazione dell'opera e ci sono molto importanti le immagini della mostra dedicata ai personaggi del film con inclusi i bozzetti di Tim Burton. E allora passiamo invece a un'altra novità che però, per modo di dire, diciamo così, almeno in Blu-ray lo è effettivamente, Il Maratoneta 1976, dirige John Schlesinger, un grande Dustin Hoffman. Doc viveva a Washington, e Washington di cosa è il centro? Del governo. Esatto. E tutti i rami sono in competizione. La verità è che sono tutti degli imbecilli pazzi. Ora, quando c'è un problema che l'FBI non può controllare efficacemente e in cui la CIA non vuole entrare, allora interveniamo noi. Noi chi? La divisione. Studente universitario appassionato di maratona, discendente da una famiglia di storici e con un padre dall'oscuro passato, Thomas Levy si ritrova a suo malgrado coinvolto in un traffico di diamanti in cui è a sua volta coinvolto il fratello maggiore Doc. Quando quest'ultimo viene assassinato, lo sfortunato Thomas si imbatterà in agenti deviati del governo americano al soldo di un pericoloso ex criminale nazista rientrato negli Stati Uniti dal suo covo in Sud America, convinto che il giovane sappia qualcosa di troppo. Tra i film più celebri del regista John Schlesinger, un buon thriller che arriva finalmente in alta definizione Blu-ray con una qualità di insieme che spesso stupisce per la resa dell'immagine e la capacità di riportare la memoria e la visione nella sala cinematografica. Traccia audio monofonica con l'originale doppiaggio in italiano dell'epoca, ma c'è anche la DTS multicanale ad alta risoluzione inglese. Purtroppo non ci sono extra. E allora grazie Claudio, questo era il Maratoneta, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. Io vi ricordo sulle note della nostra sigla di chiusura che il 19 giugno L'Esorcista torna in sala cinematografica 40 anni dopo la sua prima uscita, per un giorno solo, mercoledì 19 giugno, ed è un'esperienza da vivere assolutamente al cinema. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Peter Bescapè in regia. Un saluto, un appuntamento alla prossima settimana da Franco D'Assisti.